Capitolo 10. Coppia di opposizione minimale. T, esplosiva dentale semplice, doppia T, esplosiva dentale geminata. Esercizio 1. Ascolta le coppie di parole facendo attenzione alla pronuncia della T e della doppia T. 1. Tuta. Tutta. 2. Note. Notte. 3. Sete. 7. 4. Moto. Motto. 5. Seta. Setta. 6. Fato. Fatto. 7. Bruto. Brutto. 8. Convito. Convitto. 9. Loto. Lotto. 10. Oliveto. Olivetto.